Si parla, per semplificare il panorama dei contratti, di contratto unico. Che cosa vuol dire esattamente tutto questo? Ma in realtà non se ne parla più di contratto unico, quello che dalle indiscrezioni dei giornali, si parla di contratto dominante ed non è puramente un cambiamento formale ma sostanziale, perché significa che questo contratto dominante, che dovrebbe essere basato sulla riforma della legge dell'apprendistato che era stata già varata dal ministro Sacconi nell'ex governo Berlusconi, e diventa dominante in un unico, vuol dire che quindi si aggiunge ai 40 e passa contratti che già esistono. Sicuramente qualcuno di questi contratti verrà eliminato, ma verranno eliminati quei contratti che già non vengono utilizzati, per cui sono del tutto già inutili adesso. Il fatto che vengano eliminati non sposta di una virgola la questione. È quello che è preoccupante, che invece si inserisce questo nuovo contratto dove alcune tutele, in particolar modo la tutela rispetto al licenziamento individuale, quello garantito dall'articolo 18, probabilmente non verrà mantenuta, riguarderà poi un'età giovanile che è d'apprendistato fino ai 35, se addirittura fino ai 40 anni, e qui coloro che entreranno con questo contratto, sul quale si cercherà di far convergere gli altri contratti già oggi in essere, sarà un contratto assolutamente deregolamentato, dove il lavoratore si troverà solo e nudo di fronte alla potere e alla ricattabilità dell'impresa. E questo è sicuramente quel processo di precarizzazione, un'ulteriore sviluppazione del lavoro, a cui non corrisponde nell'immediatezza un intervento sulla sicurezza sociale, sulla garanzia di reddito e sul mantenimento dei diritti. E questo sicuramente è forse critico ancora di là della disonestà sullo storico 18. Ecco, che cosa vuol dire costruire un punto di vista precario? Allora, costruire un punto di vista precario significa riconoscere che oggi la condizione di precarietà è la condizione che tracima, che è omogenea, che è diffusa in tutte le tipologie di controllo del lavoro. Oggi ed è comune anche a tutte le condizioni professionali. Oggi non credo che non si debba più parlare di operai, migranti, lavoratori comunitari, lavoratori del call center, studenti, lavoratori over 40, eccetera. E poi a questi si aggiunge il precario, no? Oggi sì, bisogna parlare di precari operai, precari migranti, precari cognitivi, precari lavoratori del terziario, precari delle cooperative, perché la condizione di precarietà è omogenea, pur se percepita in maniera differente, pur avendo diverse storie, eccetera, però è la forma del contratto del rapporto di lavoro oggi. Partire dal punto di vista precario significa partire dal punto di vista del mercato del lavoro. E questo è un salto anche di approccio, di metodo, eccetera, che è teso verso riconoscere le differenze in cui la precarietà si manifesta, ma nello stesso tempo operare perché sia possibile sviluppare una piattaforma precaria che sia il fattore di ricomposizione di base per lo sviluppo di un conflitto che ricomponga tutte le forme della precarietà oggi.